eccomi al fronte la città più superba, ove regni Farnace, ove regnasse il gran nemico Mitridate. In quella è il più forte riparo dell'Asia già cadente, la difesa maggior dell'Oriente.